posso uscire di casa, non posso andare giù, solo in questa stanza guardando la TV. Non posso continuare a mangiare come un bove, guardo fuori e spero che piova. Non posso più inquinare con la mia auto blu, non posso allontanarmi da dove ci sei tu. Non posso più tradirti e uscire con gli amici, non posso nemmeno andare in bici. Posso lavorare per essere sincero, non pago mai le tasse e lavoro in nero. Evviva il liberismo e chi l'ha inventato, ma ora voglio i soldi dallo Stato. E un giorno torneremo a mangiare al ristorante, potremmo continuare a pagare in contante. Senza uno scontrino e senza una fattura, andremo tutti alla villeggiatura. Arriveranno mille bollette e noi non pagheremo. Falliranno tutte le aziende, ma uniti ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo.